Allora, siamo qui nei nostri appuntamenti consueti del lunedì per presentare appunto il quinto volume dell'Anti Sandhook Bostel 1943, Anch'io ho detto no, di Orazio Leonardi. E come spesso succede, come succede una volta alla settimana, anche questa è un'occasione di presentare un libro, ma anche una vita e forse anche più storie che ci accomunano e ci coinvolgono in maniera differenti, in maniera molto personale. Il punto di partenza questa sera è Orazio Leonardi, con la sua storia, la sua vita raccolta, elaborata, studiata appunto da Giorgio Mezzalira, ma il centro è una storia che molti di noi conoscono, ma non tutti, non sempre è così scontato, soprattutto magari per le giovani generazioni, che questa storia sia nota in tutti i suoi particolari. E soprattutto il punto di arrivo per noi è una condivisione di un'esperienza umana, è un ampliare le conoscenze e può essere anche salutato come l'emblema, ecco, che nella vita, Orazio Leonardi come lui tanti altri, ecco, che nella vita si possa veramente decidere, si possa resistere, si possa cambiare e si possa prendere il proprio destino nelle mani nonostante tutte le difficoltà e le avversità. Ci stiamo avvicinando al 25 aprile, è una data questa importante per la nostra storia, ma è importante anche per la biblioteca perché, come sempre, come tutti gli anni da quando è nata, questa biblioteca si ripropone in senso civico proprio di ricordare e di documentare tutte le date importanti della nostra società. Quindi partiamo dal 27 gennaio, arriviamo al 10 febbraio, proseguiamo fino al 25 di aprile, 1 maggio, 2 giugno e via dicendo. Sono tutte date importanti con tanta documentazione che mettiamo a disposizione del pubblico e che per noi rappresentano sempre comunque un momento per pensare che nella vita individuale ma anche collettiva, si possa scegliere, si possa anche scegliere in maniera collettiva, non solo individuale, un percorso diverso da quello che è la realtà, forse anche avversa in alcuni momenti. E questo senso di così anche di collettivizzare, di radunare, di così organizzare anche intorno a un tavolo più voci e più collaborazioni, la biblioteca l'ha sempre avuto, tant'è che sin dall'inizio ha sempre collaborato con diverse istituzioni, con l'ANPI, col Comune di Bolzano, con l'Archivio Storico, con la cultura. Vi ricordo che in occasione del 25 di aprile partirà anche il Festival delle Resistenze e anche questo è un'occasione per avvicinare anche giovani generazioni e portare alla ribalta temi e valori legati ad un discorso di resistenza ma anche di speranza, direi. Ecco, io ringrazio i nostri relatori, i nostri amici che sempre concorrono nel creare delle nuove occasioni di incontro fra l'utenza, fra il pubblico, i lettori e un nuovo libro. Questa sera saluto e vado in ordine così di posizione Mariella Fassardi, che dà voce in tante occasioni con professionalità, con sensibilità alla memorialistica. Orazio Leonardi, che è il nostro protagonista, e ringrazio molto per aver voluto condividere questa sua esperienza. Giorgio Mezzalira, il nostro storico, già noto perché l'abbiamo invitato anche in altre occasioni, ci ha regalato tanti studi, tante ricerche significative anche per conoscere meglio il nostro territorio. Hannes Overmeyer, direttore dell'Archivio Storico del Comune di Bolzano. Lionello Bertoldi, il nostro presidente dell'ANPI, e tutti voi che avete accolto ancora una volta un invito della biblioteca provinciale. È arrivato l'assessore Tomasini. Ti ringrazio. E a cui cedo. Facciamo parlare con gli altri. Io mi sono preso un po' il compito di fare da moderatore di questo tavolo molto numeroso, per cui avevamo pensato di dare il via con degli indirizzi di saluto, quindi pregherei l'assessore Tomasini se vuole, molto gentilmente. Grazie. Buonasera, grazie, bentrovati a tutti. Come la direttrice anch'io sono molto contento e onorato che possiate essere qui nella nostra biblioteca provinciale a presentare questo nuovo quaderno della memoria. I quaderni della memoria sono testimoniano l'impegno dell'ANPI appunto per fissare la memoria, cosa importante. Io ci tengo a sottolineare che stiamo facendo un lavoro insieme molto importante. L'ANPI, non c'è bisogno che io testimoni quanto è importante che lavoro sta facendo per tutta la nostra collettività. Noi come assessorato stiamo cercando di collaborare al massimo in tutte le forme possibili, soprattutto creando un ponte, cercando di creare un ponte con le nuove generazioni. Su questo avevamo discusso con Lionello qualche anno fa e devo dire che stiamo cercando, pensate solo al Festival delle Resistenze che prenderà il via dal 25 aprile al 1 maggio appunto in Piazza Matteotti, che abbiamo lanciato la seconda edizione. Pensiamo anche per esempio al Treno della Memoria, quindi 150 ragazzi di tutti i gruppi linguistici che vanno ad Auschwitz-Birkenau, fanno un percorso insieme che inizia prima, vanno a visitare il lager, fanno tutto un percorso anche di studio e quando tornano continuano questo percorso che arriva appunto fino al 25 aprile. Insomma, ci stiamo impegnando per trasmettere anche alle nuove generazioni il senso di quello che è stato la lotta al nazifascismo, la resistenza, i valori della Costituzione e per trasmettere loro le testimonianze delle persone che sono sacrificate per darci la libertà e la democrazia. Spesso per le nuove generazioni siamo nati in libertà e democrazia, che se qualche problema ce l'abbiamo, ma insomma siamo nati in questo mondo e quindi non sempre riusciamo a capire cos'è stato prima, quanto sforzo e anche chi si è sacrificato per noi, per le generazioni successive. Quindi chi si è sacrificato lo ha sacrificato per la libertà e per il senso di fare qualcosa appunto anche per il futuro. Nello stesso momento noi dobbiamo essere testimoni e avere una responsabilità anche per le generazioni precedenti, io credo. Quindi grazie all'ANPI per tutto il lavoro, noi cerchiamo di supportarlo al meglio possibile, ma mi sembra che grazie a questo lavoro dei quaderni della memoria, tutto il lavoro anche dell'archivio storico e il lavoro che stiamo facendo dei progetti sui giovani, forse qualche frutto lo sta dando, quindi siamo per questo molto contenti e vi invito sin da ora a partecipare anche al Festival delle Resistenze. Grazie. Grazie. Prendiamo al volo anche la sessione. Lasciamo respirare. Nel frattempo magari chiediamo ad Hannes Obermeier di qualche parola, qualche commento. Hannes Obermeier ha curato anche una piccola breve introduzione, premessa al diario. È legato a Orazio Leonardi, sì, da un rapporto di amicizia, ma è importante anche la sua presenza oggi istituzionale, anche per testimoniare l'attenzione dell'archivio storico della città di Bolzano al lavoro sulla memoria che prosegue e continua con grande interesse e con grande impegno. Sì. Lasciamo respirare. Grazie Giorgio, grazie Orazio. Dirò brevissime parole perché la scaletta è lunga e non vorrei dilungarmi troppo, ma comunque vi voglio dire che innanzitutto grazie per l'invito, ma per me è un piacere enorme, no? Perché sento anche la responsabilità di queste poche parole che ho scritto, che però vengono ovviamente dal cuore. Ma grazie, Giorgio, tu hai ricordato il lavoro dell'archivio, cioè qui parlo mio da amico di grazie. Orazio, che è una cosa che ci lega comunque, ma da storico. E comunque questa iniziativa mi sembra bellissima da tanti punti di vista, soprattutto l'unione di diverse forze che non sempre collaborano come dovrebbero collaborare, l'ANPI, la provincia, la città di Bolzano e ovviamente la testimonianza che viene da un cittadino della nostra città. Cioè questo è un bellissimo trait d'union che testimonia come l'unione fa la forza innanzitutto. Poi, e non mi addentro nel discorso storiografico che penso che affronterà Giorgio, ma comunque è una memoria da diversi punti di vista molto significativa perché poi sapete, no, l'interramento militare italiano cosa significava dal 43-45, una storia molto dimenticata per direi generazioni, e che è venuta a galla solo grazie di questo possiamo essere fieri come storici, grazie al lavoro di determinati storici, no? Penso a Gerhard Schreiber, alla Gabriele Hammermann, alla quale dobbiamo peraltro una bellissima introduzione in questo volume, proprio che inquadra il contesto storico nel quale questa sofferenza e questa esperienza si inserisce. Ma poi quello che sto anche per concludere, non preoccupatevi, ma quello che vorrei proprio sottolineare, cioè il fatto della qualità del libro stesso, cioè di questo racconto, di queste pagine, peraltro introdotto da una bellissima immagine in copertina di Mara Rozzi, che mi sembra rende molto molto bene l'idea diciamo di questa condizione umana agli estremi, no? Che questo libro racconta, ma lo racconta senza alcuna retorica, cioè è quello che mi ha colpito di più, cioè il fatto che qui abbiamo un racconto storiografico, biografico anche ovviamente, molto biografico, ma senza retorica, che non nasconde, che non edulcora, che non racchiude alcuna vendetta, come dire, a posteriori, anzi, cioè è pieno di una umanità profonda che mi ha ricordato certe pagine di Primo Levi, no? Cioè, se questo è un uomo, no? Cioè, e questa è la qualità di questo libro, no? Nella piccola Bolzano abbiamo un nostro documento che a mio avviso ha la qualità di andare molto oltre la nostra regione. Ecco, qui concludo e vorrei ringraziare soprattutto Orazio per questa ricchezza che penso ha donato a noi tutti. Grazie a te. Hannes, io passo ora la parola all'assessore Trincanato, che ringrazio anche a nome dell'Ampi, perché questo volume, insieme alla ristampa del primo quaderno della memoria esaurito, il primo quaderno si trattava della ricostruzione della storia del Lager, è stato finanziato dall'assessorato della cultura del Comune di Bolzano. Grazie. Grazie, buongiorno, buonasera a tutte e a tutti. Io mi scuso per il ritardo, ma ho finito alle 18 una commissione con la bicicletta, c'era anche molto vento. ho cercato di fare il più velocemente possibile. Io naturalmente ringrazio innanzitutto l'Ampi che ci ha dato l'opportunità, come diceva prima Hannes, di metterci insieme, perché Hannes ha detto l'unione fa la forza, l'unione fa la memoria, e credo che sia questo, no, la grande volontà che sta alla base del lavoro dell'Ampi, il lavoro dell'archivio storico, il grande lavoro anche che fa la provincia, adesso parte con questo importante festival, credo che l'assessore l'abbia citato, ma anche il grande lavoro che sta facendo la città su questo tema. Perché crediamo profondamente che sia assolutamente importante ricordare, e questo lo facciamo anche grazie alle testimonianze di nostri concittadini, in questo caso appunto del signor Orazio, che io voglio personalmente ringraziare per quanto ci ha portato appunto all'attenzione dei nostri giorni, perché credo che sia importante proprio questo. La memoria serve per riflettere sul passato, ma assolutamente è importante essere uniti, e qui l'unione è importante, per costruire il futuro. Per cui un grazie di cuore veramente all'Ampi, e permettetemi naturalmente di ringraziare gli storici che hanno fatto un ottimo lavoro, un grande lavoro di ricostruzione e di portare appunto all'attenzione anche storie poco conosciute, e questo naturalmente arricchisce la conoscenza, e quando la conoscenza è arricchita chiaramente si diventa più consapevoli e si diventa anche più capaci di fare scelte. Per cui la città di Bolzano è orgogliosa di avere dato questo piccolo contributo, devo dire piccolo, perché poi sono sempre molto attenti alle spese, meticolosi nelle spese, per cui piccolo contributo, un piccolo contributo però importante per una memoria collettiva e per una costruzione di futuro insieme. Grazie a tutti voi. Bene, passiamo ora al merito della serata la pubblicazione di questo quinto quaderno della memoria rappresenta una sorta di ideale prosecuzione del quarto volume del quaderno della memoria, che aveva cercato, con un progetto di ricerca mirato, di ricostruire la storia degli inni. Era stato un quaderno che ha raccolto, oltre ad una appendice documentaria e ad un lavoro vero e proprio di ricerca all'archivio di Stato di Bolzano, dove sono conservati molti documenti che riguardano la storia degli internati militari italiani, conteneva anche delle memorie, e tra queste memorie quella di Orazio. Questo diario in parte è anche il frutto di quella prima memoria, è stato come, io penso per Orazio, ma poi ne parleremo anche insieme, è stato come se una diga si fosse rotta, cioè se una memoria rimossa, compressa, avesse trovato lo spazio, lo spiraglio per farsi sentire, per tornare fuori da un intimo che l'aveva messa da una parte, era una memoria molto dolorosa, molto sofferta, che faceva fatica a venire fuori. Ebbene, in questa occasione lo stimolo al racconto, alla ricostruzione è stato talmente forte che ne è venuto fuori un diario molto denso, ne ha parlato prima Hannes, molto denso e molto vivo e molto vero, una biografia, nonostante sia stata scritta dopo l'internamento, quindi per gli storici si tratta di guardare con molta attenzione, di mantenere una lente analitica molto attenta a tutte queste memorie che vengono scritte dopo i fatti. E si tratta appunto di un documento molto importante che ricostruisce, quasi si potrebbe dire didascalico rispetto alla ricostruzione storica che abbiamo nel frattempo di questa vicenda degli internati militari italiani. Una storia che nasce, che ha il suo abbrivio, con l'armistizio, con la sigla dell'armistizio nel settembre del 43. Quando viene scritto il documento, quando si arriva alle parole con cui questo documento viene siglato, il testo, è utile rileggerlo e ricordarcelo, dice testualmente: ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Questo era, l'esito di un accordo che lasciava evidentemente aperte tantissime questioni, che non risolveva sostanzialmente nulla, se non stabiliva che l'Italia si arrendeva, che prendeva parte come co-belligerante, quindi non alleata agli alleati, in uno stato, in uno status che non sapeva bene quale sarebbe stata la reale, funzione, il reale compito delle forze armate da quel momento in poi. Questo ebbe, rispetto all'esercito italiano in quel momento, degli effetti molto articolati, e disastrosi. Ci fu quindi una mancanza di direttive generale nei confronti delle unità militari tedesche, di cui non si sapeva bene se fossero diventati il nuovo nemico o come dovevano essere considerate. Era un armistizio che non dava nemmeno delle precise indicazioni operative, cioè non diceva quale doveva essere azione efficace, operativa contro a qualcuno in guerra. Se queste indicazioni non si hanno, evidentemente l'esercito è in una situazione di stallo. E quindi, in considerazione che non c'era nessuna indicazione sulla linea di condotta da tenere, questo armistizio inoltre non permetteva che di non essere considerato come una sorta di libera uscita per tutti. E così fu considerato. Di fatto molti militari nell'immediato dopo 8 settembre, molti si diedero alla fuga, molti si svestirono della loro divisa, ormai dicevano la guerra è finita, in realtà non era successo tutto questo. L'armistizio era, oltre ad il prodotto di una serie di decisioni sbagliate da parte del governo Badoglio e della Corona, era anche il prodotto di una forte incomprensione che vi era stata fra il governo italiano, o meglio le sue rappresentanze militari, e gli alleati, il generale Eisenhower. Da una parte il governo italiano puntava ad avere, diciamo, una forte presenza degli alleati in Italia, soprattutto a Roma, che doveva essere liberata, e quindi dovevano sentirsi difesi, il governo italiano doveva essere difesa sufficientemente per poter gestire quel momento particolare di particolare difficoltà. E dall'altra parte gli alleati invece avevano bisogno di una forza armata, di un esercito che coprisse le azioni di occupazione che stavano avvenendo. In questa particolare situazione di indeterminatezza, dove non si capiva quale fosse il nemico, non si capiva quali fossero gli effetti di questo accordo, gli unici ad avere le idee chiare furono da subito l'esercito del Reich, quindi il Terzo Reich. Tanto che già ancora prima dell'8 settembre, alla caduta di Mussolini, nel luglio del 1943, gli alti comandi della Wehrmacht avevano già definito quale sarebbe stata la sorte di questi dei militari italiani. Già parlavano di internamento, ne parlarono ancora più precisamente l'8 settembre del 1943. Il numero dei militari rastrellati si aggira attorno ad una stima accettata di 800.000 uomini all'incirca. Di questi 600.000 finirono nei campi di internamento. Il restante, chi scelse di arruolarsi nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana, altri riuscirono a fuggire. Il 13 ottobre del 1943 viene consegnata la dichiarazione ufficiale di guerra dell'Italia contro la Germania. È interessante la data perché è passato oltre un mese, cioè un mese dopo l'accordo si dice facciamo la guerra contro la Germania, cioè si stabilisce chi è il nemico sostanzialmente. Ecco, e in questa data, secondo le convenzioni di Ginevra, i soldati italiani avrebbero dovuto essere considerati dei prigionieri di guerra. Non successe questo, nonostante l'Italia e la Germania avessero sottoscritto la Convenzione di Ginevra nel 1929 e nonostante nella Convenzione di Ginevra fossero previste delle condizioni, delle garanzie per i prigionieri di guerra che prevedevano tra l'altro anche il divieto a qualsiasi forma di schiavitù, e quindi il lavoro coatto che questi militari, l'internamento che questi militari furono costretti a subire, era sostanzialmente vietato dalla Convenzione di Ginevra. Come dicevamo, la sorte era però già scritta, e i militari che gioirono l'8 settembre furono costretti a cambiare immediatamente il loro stato d'animo nel momento in cui, e questo è molto ben descritto nel diario di Orazio quando parla del 9 settembre, vengono rastrellati da parte dei comandi dell'esercito tedesco, alcuni si sentono anche quasi tranquillizzati perché viene detto sostanzialmente che sì, saranno prima portati nei campi di internamento ma poi potranno immediatamente tornare a casa. Alcuni prestano fede a queste parole e inizialmente pensano di aver vicina la fine della guerra. Niente di tutto questo, in realtà vengono ammassati a Bolzano, vengono ammassati sul Greto del Tardo e il giorno dopo con delle lunghe tradotte portati nei campi di internamento. lungo nelle fasi dell'internamento, sulle quali non mi soffermo perché saranno poi opportunamente oggetto del racconto di Orazio, ci fu occasione di alcune visite da parte dei gerarchi della Repubblica Sociale per cercare di reclutare alcuni di questi internati all'esercito della Repubblica Sociale. Diciamo che è stato appurato, è stato un fenomeno studiato e si sostiene che circa il 75% della truppa internata, dei militari italiani internati, dissero di no a questa offerta. E in gran parte della truppa, solo qualche ufficiale, qualche sottufficiale diede la disponibilità, cioè fece uno scambio fra l'internamento e l'arruolamento nell'esercito della Repubblica Sociale. Di tutto questo Hitler e i comandi della Wehrmacht non se ne preoccupavano, perché per loro non era tanto importante avere dei soldati italiani che combattevano a fianco dell'esercito del Reich, ma semmai era molto più importante avere della mano d'opera da utilizzare nell'industria bellica a pieno regime. Perché questo era l'obiettivo sostanziale per cui questi soldati militari, questi militari vennero internati e vennero poi usati come lavoratori coatti. La direttiva di massima per il trattamento degli appartenenti alle forze armate e alla milizia del 15 settembre del 1943 del Comando Supremo della Wehrmacht, con riferimento agli internati militari, precisava che per ordine di Hitler questi militari non dovevano essere considerati prigionieri di guerra, ma diventavano internati militari italiani, uno status che non esisteva, non erano né lavoratori coatti civili né prigionieri di guerra, era uno status che li privava di qualsiasi, come abbiamo visto, qualsiasi diritto, quindi non ricadevano nelle garanzie della Convenzione di Ginevra e nemmeno ricadevano in quella prassi che si usava per i lavoratori civili, quantomeno di dargli magari poco, ma dargli un po' di soldi, un piccolo salario e magari curarli dal punto di vista del diritto, perché erano forze lavoro importanti per l'industria. Ecco, questo status particolare quindi li privò di qualsiasi diritto. Arrivò solo il 20 luglio del 1944 un accordo con Mussolini che fece cambiare, mutò lo status di questi internati, diventarono lavoratori civili. È interessante la data perché il 20 luglio del 1944 è il giorno dell'attentato a Hitler e Hitler si vede con Mussolini, spostano, questo è un aneddoto però permettetemi di raccontarlo, si doveva vedere alle 2:30, si sposta l'appuntamento alle 4 perché è scoppiata la bomba. Hitler va, incontra Mussolini 2 ore dopo e si lamenta dei suoi pantaloni che si erano rovinati a causa dell'attentato. Vede Mussolini, concordano il futuro degli internati militari italiani. Che cosa? Qual è la preoccupazione? La preoccupazione è per Hitler ovviamente di avere mano d'opera da usare nelle sue fabbriche. Il reclutamento forzato nei territori occupati non funziona più. Siamo in un momento in cui è sostanzialmente il destino del Reich è segnato. No? Dopo il D-Day, l'Italia è a Roma liberata, quindi ormai il fronte avanza e il destino del Reich è chiaro. Quindi non c'è più manodopera, non c'è tanta manodopera e bisogna invece alimentare, aumentare la produzione perché la guerra lo richiede e Hitler chiede quindi manodopera. E Mussolini gli dice, io non so più, sostanzialmente gli dice, non so più chi mandarti perché in Italia si fa fatica, l'Italia è spezzata in due, no? Ci sono gli alleati a Roma e non c'è più la possibilità di mandare decine e decine di migliaia, così come chiedeva Hitler, di mandare tanta forza lavoro civile. In più, sono arrivati in Italia i primi ammalati rilasciati dai campi di internamento e destano un'impressione tremenda per le condizioni in cui arrivano. E terzo, risulta impossibile per Mussolini chiedere rimpatrio, perché dice se noi rimpatriamo questi soldati in Italia va a finire che vanno dall'altra parte, fanno i partigiani, di certo non si arruolano nell'esercito della Repubblica Sociale. Quindi questo patto scellerato fa sì che questi soldati, questi cambino di nuovo status, diventino dei lavoratori civili con la promessa di ricevere un po' di soldi in più e di avere migliori condizioni di lavoro. Nell'ultima parte del diario Orazio parla di questo capitolo. A un certo punto dice: eravamo un po' più liberi, potevamo andare in città, però di fatto le condizioni non mutano, cioè le condizioni di schiavitù del lavoro proseguono e arrivano alla fine della guerra poi con la definitiva liberazione degli internati militari. La testimonianza di Orazio è, e il suo diario è da questo punto di vista, come dicevamo prima, molto importante, perché leggere il suo diario è ricostruire da una prospettiva molto particolare, che è la biografia personale, questo tipo di storia, però entrando nel vivo della storia. Sono quei capitoli, così come i capitoli dedicati alla storia sui campi di concentramento, in cui la memoria ha un dato storico, un'importanza storica fondamentale, perché è la testimonianza che quello è realmente successo e che è una storia che non si può raccontare prescindendo da questa testimonianza. Quindi il dato storico di queste biografie è proprio questo, cioè dire sostanzialmente, dimostrare, testimoniare che ciò è avvenuto, senza contare che queste testimonianze poi diventano fondamentali nella ricostruzione sia di dibattimenti processuali per individuare chi sono gli artefici, chi sono i colpevoli, e sia nel caso degli IMI per riuscire a ridare dignità a centinaia di migliaia di persone che fino a un decennio fa non erano nemmeno riconosciuti. Forse non sapete che i processi che ci sono stati per riuscire a veder riconosciuto lo status di questi degli internati militari sono stati poi condotti e vengono condotti spulciando anche le carte storiche, evidentemente. E qui si tratta di capire per gli avvocati, ad esempio, che cosa significa lo stato di cobelligerante per l'Italia, che cosa significa uno status di internato militare italiano che non è previsto da nessuna carta del diritto. Quindi queste testimonianze alla fine diventano fondamentali per riuscire a fornire quelle informazioni e quei dati che permettono, primo, di conoscere quali sono i colpevoli, di essere riconosciuti e di aver dignità. Ricordiamo che la storia degli IMI è stata per molto tempo considerata e vista come la storia di un'Italia sconfitta, e per questo non considerata. Quindi è importante che queste biografie, queste testimonianze diano finalmente valore e significato a questa storia. Io ad Orazio adesso vorrei chiedere, visto che il tuo diario si occupa, possiamo dire, a diverse tappe, no? E una di queste prime tappe sicuramente è la cattura, come sei stato sorpreso da questi eventi. Ricordiamo che forse Orazio Leonardi è stato arruolato il 21 agosto del 43, quindi appena arruolato gli è capitato fra capo e corpo questa cosa. Dopo 14 giorni ero già un prigioniero. Allora, ringraziando la provincia, nella persona del vicepresidente dottor Tomasini, l'assessore Patrizia Trincanato, il direttore dell'archivio storico del comune di Bolzano, dottor Obermeier, sono riconoscente al senatore Bertoldi e al professor Mezzalira per aver voluto inserire il mio diario nei quaderni della memoria. Infine ringrazio la dottoressa Trevisan per aver accolto questa presentazione. Un grazie di cuore a tutti voi qui intervenuti. Grazie. Grazie. Siamo noi che ringraziamo. Allora potrei raccontare quel che è successo il 9 settembre. Beh. Erano circa le 3 di notte, perché l'8 settembre eravamo in libera uscita, abbiamo sentito che l'Italia aveva chiesto l'armistizio e siamo tornati in caserma. Cioè, verso le 11 di sera, di notte, cioè alle ore 23, ci hanno mandato a dormire, state vestiti perché non sappiamo quel che può succedere. Da giovani come eravamo, avevo 18 anni e mezzo, io neanche 19 anni, ci siamo addormentati come dei sassi, come naturale per l'età che avevamo. A tutto un tratto, alle 3, un fracasso da matti, colpi di mitraglia, un colpo di mortaio aveva sfondato il tetto e praticamente c'era un caos infernale nella caserma, eravamo tutti quanti proprio nel panico assoluto. E quando, dopo tutto questo fracasso, abbiamo sentito anche i cingolati che si muovevano, e dopo al silenzio che è subentrato una voce in tedesco, dopo ripetuta in italiano, ci ha detto di scendere tutti a braccia alzate, senza zaino, senza niente. Dovevamo scendere nel cortile, insomma, mi sono messo in tasca tutto quel che potevo perché il zaino non si poteva portare. E siamo scesi giù e c'era una ventina di soldati tedeschi che ci tenevano sotto il mitra, che allora loro avevano il mitra, noi avevamo il fucile alto e il modello 91 che era grande quasi come me. E praticamente ci hanno ammassati, ci hanno fatto sedere per terra e insomma siamo stati là per 4-5 ore, tutti in silenzio, guai a muoversi, a parlare, eccetera. Poi cosa hanno fatto? Prima sono usciti gli ufficiali, che loro avevano però i zaini, i valigie sulle spalle, pensavamo che anche noi potevamo prendersi i nostri zaini, siamo andati verso il padiglione e invece ci hanno respinto col calcio dei fucili, però dovevamo stare lì. E praticamente poi ci hanno fatto alzare e ci hanno avviati fuori dalla caserma. Siamo transitati per Piazza Gries, che allora si chiamava Piazza Tiberio, corso 9 maggio, o oggi corso Libertà, e insomma sono passato sotto le finestre di casa mia. Nessun problema. Hai promesso di essere tranquillo. Non so, ma sì, è dentro. Questi ricordi sono nella carne ormai, non si muovono più. Se vuoi adesso, allora, sì. Se vuoi continuare? Sì, no. Sì, no, i miei non c'erano perché erano andati sfollati a Colalbo, praticamente le persiane erano chiuse. E da lì dico, chissà se potrò tornare in questa casa. E dopo di allora ci hanno portato nel Talbera. Mm-hmm. Bene, io lascerei che adesso Mariella ci leggesse una parte di questo... Beh, questo giorno. Perdonate, l'emozione mi leva. Nella folla che si assiepa lungo la passeggiata in cerca di amici o familiari, tenuta a distanza da soldati armati, finalmente intravedo i miei genitori che gesticolano e parlano con una sentinella tedesca. Corro verso di loro e ci abbracciamo. Nei loro volti straziati vedo la mia sofferenza. Le raccomandazioni di mio padre sono tese alla calma e alla speranza. Chiedo loro se possono portarmi degli indumenti, dato che tutto ciò che possiedo è la divisa che indosso. Nello sguardo dei miei genitori vedo tutta la sofferenza fisica e morale per l'incognita dei nostri destini. Poi la sentinella ci divide. Tra le lacrime un ultimo abbraccio. Li avrei rivisti solamente dopo 2 anni di sofferenze. 10 settembre. Alle 17 siamo fermi al Brennero. Al di là dei binari ci sono delle persone che ci rincuorano e ci invitano a lanciare dei biglietti con gli indirizzi dei parenti. Ci penseranno loro a mandare alle famiglie la notizia del nostro passaggio. quando la tradotta si muove con il suo caratteristico sferragliare, il nostro morale tocca il fondo. Così, quando entriamo in terra tedesca, nel vagone cala un silenzio assoluto. Ognuno di noi è concentrato sul pensiero dei propri cari e l'angoscia del futuro che ci attende. Qualche singhiozzo represso dà il via a un generale abbattimento. E ricordo di quando avanguardisti ci portavano al Brennero per salutare i grandi dittatori che inconsciamente ammiravamo, mi riempie di amarezza e di risentimento. Arriviamo. No, puoi andare. Proseguo. Ecco. Dura due giorni e mezzo questo viaggio, in condizioni inenarrabili di affollamento, di mancanza di cibo, di acqua e tutto, insomma. E si arriva nell'estremo nord della Germania, ecco, la stazione a cui vengono fatti scendere è Bremen-Förden, che si trova a metà tra Brema e Amburgo. E poi più di 9 chilometri a piedi, sotto la spinta, le urla, gli spintoni della scorta armata, fino all'arrivo al lager di Sainte-Beuve. È impossibile spiegare ciò che provo in questo momento. La stanchezza e l'angoscia mi danno un senso di nausea. La realtà del momento è drammatico, l'avvenire sarà molto amaro. Camminiamo in un viale transennato su ambedue i lati da alti reticolati e una distesa di baracche divise in blocchi. Dalle finestre, visi smunti e demaciati ci guardano in silenzio. Altri, dalle divise differenti, ci salutano alla voce, chi deridendoci, chi insultandoci. In un settore vedo un gruppo di esseri umani nudi, scheletrici, sull'attenti davanti ai soldati tedeschi. Queste immagini si fissano nel cervello e mi rendono sempre più consapevole che forse la mia vita finirà in questo inferno. La fame. L'insufficienza di cibo ci rende deboli e di malumore. Le proteste per i pochi grammi di pane sono all'ordine del giorno. Ci vorrebbe un calibro per misurare la grandezza delle tre patate che ci danno. Tutto diventa occasione per litigare. Il freddo. Comincia a fare freddo. Dormo vestito, coperto da pastrano. Il legno del castello diventa sempre più duro. Non ci sono coperte, non ci sono pagliericci. Direttamente sul legno. Ecco, questo legno mi ammacca le ossa. Siamo infestati dalle cimici e dai pidocchi, che ci succhiano quel poco sangue che abbiamo. Siamo debilitati e sporchi, le latrine sono immonde, non abbiamo possibilità di lavarci a fondo, stiamo diventando dei barboni irritabili. La fame ci torce l'intestino. Siamo sempre in attesa spasmodica del poco cibo che ci danno. Ecco, siamo Cioè, potrei parlare della vita nell'Ager di San Bosco. È stata molto dura perché non c'era, le giornate erano lunghe, non si sapeva cosa fare, c'era l'inedia, ci eravamo presi proprio diventavamo, non so, quasi dei zombie proprio, perché non ci si lavava, perché non c'era possibilità, c'era quattro lavandini per 2.000-3.000 che eravamo. Dunque, pensate un po' come facevo, non avevo né sapone né da barba, lametti, niente, avevo niente. Mi asciugavo con la sciarpa, l'unica cosa che avevo era una sciarpa, e mi asciugavo la faccia quando mi lavavo, comunque che potevo lavarmi con una sciarpa. Pensate un po' quel poco di biancheria che dovevamo lavare senza sapone, senza niente, e la stendevamo lì per terra per farla asciugare. Insomma, è stato un inferno. Poi, dopo, praticamente il primo novembre ci hanno detto: domani partite per il lavoro coatto. Ecco, se Mariella vuole leggere. Ecco, quindi è passato un mese e mezzo nel lager di San Bostel, e il 2 novembre. È ancora buio quando ci inquadrano. Una bava di vento freddo penetra fra gli elementi insufficienti a questa latitudine. Il camminare lento della colonna viene spronato da urla e strattoni da parte della scorta. Chi rimane indietro viene sospinto con il calcio del fucile. Non sentiamo nessuna pietà da questi soldati, neanche si rendono conto della nostra debolezza e della fame che ci taglia le gambe. Finalmente, dopo aver ripercorso in senso inverso il tragitto di quando siamo arrivati, raggiungiamo la stazione di Bremervörde. Sono stanchissimo. Abbiamo camminato per oltre 9 chilometri senza mai fermarci, con le continue angherie della scorta tedesca. Ci caricano su vagoni merci, che vengono chiusi e spostati su binari morti. Rimaniamo per ore al chiuso e al freddo. Praticamente siamo arrivati ad Amburgo, quando hanno aperto il vagone ci hanno caricato su dei camion e ci hanno trasportato forse per mezz'ora al buio, perché erano le 11 di sera, dunque abbiamo dal mattino siamo stati chiusi in questi vagoni senza mangiare, senza poter fare altre cose, fino alle 11 di sera, come dicevo. Siamo arrivati vicino a una fabbrica, ma al buio non si poteva distinguere dove eravamo, attraversiamo dei fili, dei reticolati, entriamo in un cortile, uno spazio dove c'era una baracca tutta illuminata. Siamo rimasti di sasso, perché vedere questa baracca bella, pulita, con i castelli, con i pagliericci, le coperte, le panche, abbiamo pensato: qui siamo arrivati in un albergo di prima categoria, dalla differenza che c'era dalle baracche di San Bostel a queste. Poi ci hanno portato un pentolone di minestra speciale, cioè, eravamo proprio entusiasti di quel che stavamo vivendo, senza pensare a quel che dopo ci sarebbe successo. La fatica. Le giornate si susseguono con lavori, ora pesanti, ora leggeri, ma la fame, il freddo, la pioggia gelata e la fatica minano le mie difese. Mi accorgo che dimagrisco a vista d'occhio e giorno dopo giorno sento che le forze mi vengono a mancare. Certi giorni dobbiamo spostare bidoni pieni di olio e di grassi, pesantissimi, fino all'imbarcadero, per farli caricare sulle chiatte. Il ritmo del lavoro è febbrile, accompagnato da urla, spintoni e insulti dei capi. Dopo 10 ore di lavoro, tornato in baracca, mi stendo sul pagliericcio, sfinito. Nei giorni successivi, capita più volte che all'alba ci trasferiscano a piedi a spostare bidoni e rimuovere macerie in altri depositi della Shell, che si trovano a chilometri di distanza. Questi trasferimenti ci fanno saltare il pasto del mezzogiorno. Attraversando queste zone industriali mi rendo conto delle distruzioni avvenute. Penso con terrore a quel che ci può capitare se cominceranno i bombardamenti. Torniamo che è buio, pisto. Le sentinelle che ci accompagnano ci spronano a camminare più svelti. Ma la stanchezza ci taglia le gambe. Il freddo ci taglia la faccia. Siamo al limite della sopravvivenza. Entrati in baracca, ci buttiamo sui nostri giacibili. Il pensiero della morte come riposo comincia ad aleggiare nella mia mente. Mi scuoto al pensiero dei miei genitori. Arriva dicembre. Il freddo si fa pungente, nevica, la neve diventa subito unta e sporca. Tutte le squadre sono subito adibite a spacciare ogni angolo della raffineria. È inimmaginabile la fatica, il freddo che sto patendo. I piedi sono ghiaccianti e bagnati. Le scarponi che indosso non tengono più il bagnato. Avrei fatto meglio ad aderire alla Nuova Repubblica, forse mi sarei salvato, non ho più speranza di tornare a casa. È Natale. Una tristezza mortale mi assale. Penso con dolore alle feste passate in famiglia, addobbare l'albero, scegliere i giocattoli per mia sorella Mara, di soli 6 anni. L'atmosfera gioiosa. Invece sono qui triste e disperato. Il non sapere nulla dei miei cari acuisce ancor più la mia tristezza. Come e dove staranno trascorrendo questi giorni? Interrogativi che, non avendo risposta, mi diventano insopportabili. 31 dicembre 1943. A mezzanotte le sirene delle imbarcazioni fanno sentire il loro ululato. Siamo nel 1944. Sarà forse l'anno in cui finirà la guerra e la nostra prigionia? È successo proprio nei primi giorni di gennaio, abbiamo dovuto fare un lavoro, siamo stati adibiti a un lavoro molto pesante e praticamente dopo 2 o 3 giorni avevo la febbre, stavo male. E hanno venuto l'infermiere della fabbrica, della raffineria, mi ha dato delle pastiglie, ma la febbre continuava, poi è venuta la diarrea, eccetera. Praticamente dicono, la portiamo in ospedale. Infatti un mattino, accompagnato da questo soldato, abbiamo attraversato l'Elba, così ho potuto vedere la grandezza del porto di Amburgo, perché dove eravamo sempre a lato di qualche canale solo. Praticamente abbiamo attraversato un po' la città e dovevamo camminare per la strada perché era proibito per noi prigionieri camminare sui marciapiedi. Eravamo degli appestati. Arriviamo a un edificio che con la scritta sbiadita era hotel con un nome. Praticamente era un ospedale dedicato a noi prigionieri. E dopo che mi hanno portato dentro questo ospedale, questo edificio, c'erano dei soldati italiani con la fascia della Croce Rossa al braccio, praticamente ero tra gli italiani finalmente. Mi hanno ricoverato in una piccola stanzetta assieme ad altri sette ammalati. Poi è passato il medico, perché veniva sempre un medico tedesco e un medico italiano insieme, perché dovevano tutti e due controllare se il medico italiano faceva qualche favore a noi poveri disgraziati. Praticamente pesavo neanche 52 kg, mi hanno dato delle pillole contro la diarrea, per la febbre, eccetera. Dopo due o tre giorni, alla visita giornaliera, il medico tedesco dice Raus, Arbeit, Arbeit, tornare al lavoro. Gennaio 1944. Tornato al solito lavoro di spostamento di bidoni, dopo poche ore di lavoro non riesco più a stare in piedi. Le gambe mi si piegano, mi riaccompagnano in baracca, torna l'infermiere della raffineria. Passati due giorni viene un medico tedesco, non mi visita, guardandomi parla con Kagol, il capo baracca, il quale mi traduce che domani mattina devo essere pronto per essere trasferito in un lazzaretto. Mi sento finito, la speranza di vita mi abbandona, piango lacrime di sconforto e di paura. I miei compagni cercano di darmi conforto e speranza, ma è tutto inutile. La disperazione mi offusca la mente. 25 gennaio. Ecco, e adesso Lazzaretto è proprio nell'estremo nord. Vicino alla Danimarca. Sì, vicino al confine con la Danimarca. Finalmente il treno si ferma in una piccola stazione in aperta campagna. Camminiamo in una strada asfaltata fra campi coperti da un strato di neve. In lontananza fattorie dai camini fumanti sanno di calore e di intimità. Il freddo è intenso, la fame e la stanchezza mi attanagliano le viscere. Dato il mio passo troppo lento, la guardia che mi segue urla e mi strattona per farmi camminare più svelto. Lacrime di rabbia e di impotenza si cristallizzano per il freddo fra le ciglia. Il medico italiano che mi visita diagnostica un grave deperimento organico. Peso 50 kg con gli indumenti di tela che mi hanno dato. Mi esorta ad aver fiducia. Il riposo, ma soprattutto il morale, devono sopperire alla mancanza di nutrimento. La giornata è lunga nel lazzaretto, le ore non passano mai. Raggomitolato dentro questa specie di coperta che pesa ma non scalda, sostituiva il pagliericcio e la coperta ed era piena di fogli, di pezzi di giornale, ecco, quindi pesante e fredda. Viali, un compagno proveniente da Rimini, vicino di Branda, perché hanno sempre doppio. Mi racconta di sua moglie, dei suoi due figli, delle giornate passate in spiaggia, dell'orto che coltivava, e qui la conversazione diventa ossessiva dei cibi che la moglie gli preparava. Nel parlare il suo viso cambia d'espressione. Credo che veda le cose che mi racconta, ma improvvisamente diventa serio. Gli si riempiono gli occhi di lacrime. Piange. Il suo dolore è contagioso e senza pudore. Sto perdendo fiducia. Non so nulla della mia famiglia. La fame e il freddo mi attanagliano. Cosa serve vivere un mese o due in più per finire poi sotto mezzo metro di terra? Perché soffrire tanto? Quale crudele destino devo subire per raggiungere la pace del corpo e dell'anima? Un mattino entra un infermiere con una faccia sorridente, grida apposta. Salto dal castello con il cuore in gola. Chi saranno i fortunati? Non ho tempo di pregare. Assieme ad altri viene chiamato il mio nome. Con il cuore in tumulto e un velo di pianto che mi appanna gli occhi, stringo fra le mani questo pezzo di carta che mi darà un raggio di luce nell'oscurità dell'animo. Leggo tutto d'un fiato, senza capire nulla di quello che leggo. Sono 6 mesi che aspetto questo scritto. Vedo solo l'inconfondibile calligrafia di mio padre. Leggo e rileggo 100 volte lo scritto che mi comunica la più importante verità, che sono tutti in salute e vivono in un paese del Trentino, a Ronzone. È il tramonto. Come tutte le sere, entra il carro trainato da un cavallo che trasporta una grossa mezza botte. Il conducente entra nella baracca delle guardie. Il carro incustodito rimane davanti al magazzino. Un prigioniero si arrampica velocissimo sul carro. Vedo che mangia con le mani quel che contiene la botte. Per istinto salgo anch'io. Mi ritrovo con le mani dentro un intruglio di cavoli, patate, sughi, vari pezzi di pane. Mi ingozzo di quel ben di Dio, ma la festa dura poco. Siamo presi per la collottola e strattonati dal conducente del carro. Stavamo mangiando gli scarti destinati ai maiali. Non so per quale miracolo il mio organismo ha potuto sopravvivere senza patire altre malattie. Purtroppo la permanenza di carta in questo lazzaretto è stata forse le pagine più brutte della mia vita, perché non avevo più speranza di vita. Vedevo anche, pochissimi sono usciti con le loro gambe da quel lazzaretto. Perché vivevamo proprio, eravamo all'estremo, proprio forse non potevamo neanche stare in piedi più, quasi. Ma soltanto pensiero dei miei genitori che avrebbero potuto soffrire alla mia dipartita mi ha dato una carica dentro il cervello, dentro il cuore, devo vivere. E anche qui. Ho sempre cercato qualcosa per poter migliorare la mia esistenza in questi campi. A San Boster per un mese ho fatto lo scrivano per scrivare, perché dovevamo catalogare tutti i prigionieri, se facevamo le cartoline eccetera, no? E lì c'era una zuppa in più e ero al caldo. Per un mese ho goduto al caldo. A San Boste cercavano un sarto. Mio padre era sarto, voleva che io diventasse sarto, però non era il mio mestiere. In ogni modo ho imparato le prime, se cucire a macchina eccetera. Hanno chiesto, c'è un sarto? E io mi sono buttato subito, perché dico, qualcosa farò. Infatti ho dovuto fare dei sospensori per i operati di ernia, eccetera, no? E lì ho avuto un'altra fortuna, anche lì ho passato una 25-30 giorni al caldo, perché nella baracca si poteva il freddo da pazzi proprio. E anche lì avevo una zuppa, anche se era di cavoli, di quello che era in più. E anche questo mi ha servito, perché dovevo vivere, non chi si abbatte, io ho visto proprio, l'ho notato, che chi si lasciava andare, andato un momento, moriva, perché non combatteva contro, doveva combattere contro se stesso, contro la sua. Ecco, praticamente sono passati 3 mesi, era il 16 di aprile, come oggi proprio, ho detto torno in fabbrica, perché se no, se resto qua, a un dato momento mi portano a San Boste, come la maggioranza degli incurabili, praticamente si andava a morire a San Boste. Praticamente abbiamo fatto la strada a rovescio, cioè dal lazzaretto a questa stazioncina, eravamo in 3. Siamo arrivati fino a, meno male che c'era un pallido sole che praticamente ci scaldava, sembrava quasi un paradiso vedere il sole, che eravamo, quando siamo arrivati c'era un freddo bestiale nel tragitto verso il lazzaretto. E praticamente sono tornato al lavoro. Puoi raccontare adesso qui? La mia fortuna è stata questa. Ritorno al lavoro. Tutti i giorni le squadre si riuniscono per l'assegnazione dei lavori da eseguire, alla presenza dei vari capi e di un dirigente di cui abbiamo sempre avuto timore per la durezza che dimostra nei nostri confronti. Arrivato il mio turno, mi chiede nella sua lingua: sei sano? Io mi limito ad allargare le braccia perché veda il mio fisico. No, dice, e parlottando con i capi squadra nomina il nome del povero Fini, un suo compagno che era morto al lazzaretto. Ma qui succede l'imprevisto che mi salverà la vita. Assegnati i lavori alle squadre, mi facendo di rimanere, scorgo attraverso gli occhiali uno sguardo di pietà. Si fa seguire in un ripostiglio dove ci sono scope, raschietti, spazzole metalliche, mi facendo di prendere gli arnesi e di seguirlo. Accenni e con qualche parola di tedesco che ho imparato, mi indica il lavoro che devo fare: raschiare i grassi che si sono accumulati nel tempo sulle scalette di ferro, sulle passatoie aeree tra le cisterne. È un lavoro che mi dà respiro, non dovendo rispettare tempi e controlli, e poi non dovendo spostare quei bidoni pesantissimi. Penso che buon Dio abbia illuminato la mente del dirigente. Sono salvo. Lo chiamavamo Becco Giallo, questo dirigente, che non ricordo, o non so chi è che l'ha battezzato Becco Giallo, perché era proprio molto severo. A un dato momento però penso che un tedesco, proprio questa persona che quasi odiava gli italiani, mi ha salvato la vita. Se non c'era lui, forse non sarei qui a raccontare questa storia. In settembre poi, il nostro amico Mezzalira, in settembre volevano renderci liberi lavoratori, però dovevamo aderire alla Repubblica Sociale Italiana, e qui anche questa volta ho detto no, perché andare a diventare amico di questa gente che ci ha trattato in questo modo? Solamente eravamo in 50, 12 soldati hanno firmato, e li vedevamo la sera uscire, andare fuori, e tornavano, oh, abbiamo mangiato qui, abbiamo fatto questo, c'era questo, c'era... e noi andavamo giù e saliva Mara. Però dopo 15 giorni ci hanno detto siete tutti ormai diventati liberi, liberi lavoratori, perché hanno visto che non c'era l'adesione da parte di questi internati, allora hanno fatto di ufficio tutti liberi. Ecco, praticamente per noi era finita la prigionia, perché potevamo uscire, andavamo a mangiare con pochi fennichi, perché la fabbrica ci dava pochi soldi, perché si trattenevano i soldi del castello, del legno, di quel poco cibo che ci davano, e ci davano pochi, forse 7-8 euro al mese ci davano. Potevamo andare fuori a mangiarsi qualche piatto di patate nei snack, quelle che c'erano, quei piccoli, non so come si chiamano, ristorantini. Ecco, praticamente però eravamo liberi, non avevamo più reticolati, perché vivevamo sempre sotto, chiusi da reticolati, e anche sopra il tetto avevamo paura che scalcavamo. E non c'era più i soldati che ci ordinavano niente, e eravamo liberi. Passavamo per le strade, finalmente sul marciapiede, perché noi eravamo più appestati come quando eravamo in divisa a Lacera, come quando camminavamo per le strade di Amburgo. Poi è arrivata la fine della guerra, il 2 di maggio, finita, sono arrivati i canadesi, gli inglesi, e ci hanno portato in un ex campo di concentramento di ufficiali belgi, e siamo stati lì 2 mesi, e dopo finalmente ci hanno caricato sui treni, cioè vuol dire partire dalla stazione di Amburgo, dal primo binario, e ci siamo tutti accalcati in questi vagoni per tornare a casa. E qui, no, leggi da te, non me la so. Ecco, non proprio l'ultimo, non me la so. Il suo viaggio fino a Bolzano, e poi doveva raggiungere la famiglia a Ronzone, quindi con i mezzi e la funivia. Arriva la Mendola e abbiamo l'epilogo, ecco, un lieto fine. Non essendoci mezzi di trasporto per Ronzone, mi avvio con le ali ai piedi per percorrere i 9 chilometri, ultima tappa che mi separa dalla felicità. Raggiunte le prime case del paese, non sapendo dove andare, chiedo a una signora informazioni per raggiungere casa mia. E questa, comprendendo chi sono, mi fa salire in casa chiamandomi per nome, raccontandomi di quanto hanno parlato di me con mia mamma. È meglio che vada lei ad avvisare del mio arrivo. Dalla finestra intanto vedo mio padre, Renata, con la piccola Mara in braccio, che corrono lungo il sentiero. Un tumulto di gioia mi riempie il cuore. Presto sarò fra le loro braccia. Dopo 2 anni si stava ripetendo l'abbraccio, e questo però sarà di gioia e di felicità. Stringo mio padre. Un nodo mi chiude la gola. Parlano solo le lacrime che bagnano i volti. Non riesco a spiccicare parola. Abbraccio le mie sorelle. Il nodo si scioglie dopo un pianto liberatorio. Dopodiché corriamo tutti insieme verso casa, dove mi attende la mamma. Volo sui gradini della scala. La porta è aperta. La mamma è immobile nel centro della stanza, con le lacrime che le rigano il viso. L'abbraccio, l'alzo da terra e mi metto a girare in tondo, ridendo e piangendo. Forse una gioia così grande non la proverò mai più nella mia vita. Io vorrei ringraziare Orazio veramente tanto, questa è un'occasione per lui non solo importante ma credo dovuta per quello che la sua storia vuol dire nel personale e nel collettivo. Vorrei prima di lasciarci di concludere la serata, vorrei che Mariella però spiegasse anche la ragione non solo di questo rapporto con Orazio di amicizia cordiale, ma c'è qualcosa in più in questa sua presenza oggi e vorrei che lo raccontasse lei. Grazie, è vero. Io sono figlia di Umi. Mio papà è morto 35 anni fa, quindi in un'epoca in cui questa memoria doveva essere sepolta, cancellata. E io sapevo di lui, ero nata nel 47, quindi la sua esperienza dell'inferno del Lager, e lui era vicino a Linz, a pochi chilometri da Mauthausen. Sapevo perché quando ero piccolissima mi aveva raccontato alcuni episodi e solo quando ero piccolissima, probabilmente come sentendomi come un alter ego, ecco, una parte di sé in quel momento, proprio perché ero piccolissima, so che non ne ha mai parlato con nessun altro, ecco, come la stragrande maggioranza di chi è tornato e prima aveva continuato a dire no per tutto il tempo. Morto abbastanza giovane, io ecco ero ancora molto giovane e quindi avendo avuto adesso questa opportunità, dando una mano a Orazio, è stata un'esperienza bellissima di cui sono molto grata, ma sono subito stata molto grata perché mi ha permesso di ricontattare una parte di mio padre e di dar voce anche a mio padre, ecco, per cui sono molto molto grata di questa opportunità che mi avete dato. Grazie. Buonasera. Voglio dire una cosa? No. No? È troppo facile. Io ringrazio intanto la biblioteca Claudio Augusto, perché ti ha ospitato e perché ci ha permesso di presentare il quinto quaderno in maniera importante. Vogliamo approfittare ancora della biblioteca e presenteremo il terzo quaderno che parla di un altro bolzanino che si chiama Ludwig Karl Racciller. Quello non siamo riusciti a presentare il libro prima che ci fosse ancora caldo, ma pregherò Mezza Lira, che anche in questa occasione è stato l'artefice del libro, di presentare questo terzo quaderno della memoria, perché rappresenta che cosa significa conservare la memoria e proteggere la memoria. Dal sacrificio di Orazio e dal sacrificio di Karl Ludwig Racciller è avvenuto il riscatto di questa terra. La nostra storia comune fra popolazioni di lingua italiana e di lingua tedesca nasce quando ci riscattiamo dal fascismo e dal nazismo, quando questo sacrificio ci consente di farlo. E il terzo quaderno racconta la vita di Karl Ludwig Racciller, che diventa, rifiuta tre eserciti, ma diventa partigiano della Brigata Calva. È un sudtirolese che riscatta l'onore dei sudtirolesi riscattandosi dal fascismo e dal nazismo. È questo che l'AMPI porta avanti. Noi proteggiamo questa memoria perché proteggiamo l'inizio della nostra storia comune. Vi ringrazio tanto. Molto bene. Veneto. E lei apparteneva a? 232esima fanteria.